fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui di nuovo live, sempre sabato 4 agosto. Io sono sempre Master Nick, questa è Restoradio Convento alle 2:11 del mattino. Continuiamo a chiacchierare insieme agli sposi, insieme a tutti i festeggiati di questa lunga nottata e serata qui al convento, e diamo il benvenuto a quattro ragazzi che si sono comunque fatti riconoscere all'interno della nostra serata perché indossano maglie di un colore non propriamente maschile, me lo perdonerete, però ci sta, insomma, anche colorare una serata importante in modo diverso dal solito, e sicuramente la terrete per ricordo appesa nell'armadio come si fa con le maglie dei calciatori che si ritirano, visto che avete questa passione in comune del calcio. C'è però un protagonista tra tutti, che è lo sposo di questa serata, che andiamo a salutare. Benvenuto. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Allora, come ti chiami? Mattia. Guarda, basta che ci parli davanti, va benissimo. Mattia, da dove? Di Adana, Mantova. E vabbè, io ho già anticipato quello che succede. Comunque sei qui per festeggiare il tuo Dio celibato. Esatto, con Giada mi sposerò il 25 agosto. 25 agosto, lo dicevo fuori onda, data molto molto gettonata quest'anno. Non so perché tutti hanno deciso di cambiare i piani delle vacanze dei loro amici, decidendo... Voi come mai avete deciso questa data? C'è un motivo o è stata casuale? No, perché il padre della mia compagna, venendo dalla Costa Rica, può soltanto in questo periodo. Dalla Costa Rica? Sì, c'è delle gelaterie, quindi dopo aumenterà il volume del lavoro, okay. Perché lui deve presenziare... Ma scusa, lei è italiana? Sì, lei è italiana, anche il padre è italiano, si è trasferito. Ha fatto sta scelta di vita, yes, e il famoso prendo e mollo tutto, apro un barettino, lui l'ha fatto veramente, esatto. Anche se ha aperto una gelateria. Sono 12 anni che lui è là, io sono andato a lavorare là per un lasso di tempo di 3 mesi, 4 mesi, dopo sfortunatamente la compagna, nonostante la presenza del padre, non si è trovata bene. Ha deciso di tornare lì. Eccoci in Italia. E fa gelateria, quindi? Yes. Beh, cavolo, il gelato italiano in Costa Rica mi sa che spaccano. Spaccano, assolutamente sì. Esatto. E come mai, adesso perdonami, però mi incuriosisce, come mai la scelta della Costa Rica? Ah, perché comunque c'era una base solida, cioè il padre là già inserito da molti anni, e quindi siamo andati là. Se fosse per me, io ritornerei là. Non si sta malaccio. E me, visto che mi sposo, si decide in due. Certo. Momentaneamente l'Italia è la prima scelta. Beh, chiaro. E lui, sì, 12 anni, me l'hai detto. Esatto, me l'hai detto. Esatto. Ma lui si era informato sulla zona, o così è andato a caso? No, è partito tutto da una vendita di appartamenti in un residence. Lui è andato per fare una vacanza normale. Le vacanze, ha deciso poi di restare. Ah, quindi è rimasto colpito dalla zona ed è bello, bella come scelta. Tra l'altro, scusa, mi dicevi che è il momento di bassa adesso, ma è a fine agosto, quindi là esatto. il periodo di alta stagione è diverso dal nostro. Esatto, là diciamo che la loro estate sarebbe il nostro inverno. No? Ah, e ok, ovviamente okay. Ovviamente il contrario, la nostra estate è il loro inverno. Ho capito. Il volume del lavoro. Quindi siamo a gennaio praticamente adesso. O intorno a gennaio? No, siamo sempre come... Sì, però dico, come esatto. Lavoro è come se fossimo a gennaio per una gelateria. Esatto. Ho capito. Bene, vedi quante cose interessanti che si scoprono. E tra l'altro da Via Adana alla Costa Rica il passo è brevissimo. Cioè, dura la scelta, immagino, tra Via Adana... Sì. Tra il mare di Via Adana e il mare della Costa Rica. Il fiume Po di Via Adana Beh. Capisco che sia dura, ma hai scelto di cuore e ci sta. Allora, ti accompagnano i tuoi tre moschettieri, diciamo così, e vuoi presentarci tu? Volete dire qualcosa voi? Fate voi. Il primo alla mia sinistra è Gianni. Uh-huh. Poi il secondo è Gian, che gli abbiamo tirato via due lettere per... No, scherzo. E il terzo, ultimo, è Francesco, detto il Cecchino. Il Cecchino? Esatto. Come mai? Perché quando giocavo a basket ero abbastanza bravino. Ah, pensavo che facessi il militare o lavorassi nella... In realtà ne ha già messo incinta 5 o 6, però... Ah, però. Ma lui ne è consapevole? Ma non lo so. Ah, infatti è quello che c'è da capire. Quasi uno. Ah, neanche loro lo sanno, ma penso che lo scopriranno a breve. Cioè, o capiranno aver mangiato troppa pizza, o ci sarà un motivo per cui gli sta crescendo poi, la pancia. Diciamo che vogliamo sfruttare anche altri due nostri amici. Certo. Dovrò esserci, Riccardo e Remo, purtroppo impegni lavorativi li hanno... Diciamo che è normale in questo periodo. Sono tutti amici, compagni, colleghi? Sì, no, amici da una vita. Uh-huh. E ovviamente amici anche quei due che non ci sono. E certo. Eccoci qua. Diciamo che siamo conosciuti soprattutto giocando a calcio insieme, diciamo, ma a livello motoriale. Ah, ok, infatti lo diciamo prima di questa passione comune che vi unisce, no, hanno anche... Sì, perché diciamo che il calcio amatoriale non finisce dopo la partita, anzi forse la vera partita si gioca dopo il novantesimo, con, esatto, col pane e salame, insomma è anche bello quel momento conviviale, diciamo così, che poi almeno nelle mie zone unisce entrambe le squadre, cioè anche gli avversari di solito si fermano a mangiarsela, a raccontarsela, quindi è quello il bello dell'amatoriale che non si vede forse nel professionistico. Che ruoli avevate, dove giocavate? Io difensore centrale, e diciamo che a qualcuno di loro qualche pacca sulle caviglie gli è arrivata, no? Ah sì, ma perché giocavate contro o durante gli allenamenti? No, perché giocavamo contro. Ah, ok. Esatto. Dopo hanno sorvolato su questo ed eccoci qua. Vabbè, diciamo che poi passa il tempo, è normale che cambino un po'. E giocavi nel Viadana? Sì, a livello, esatto, a Viadana, sempre a livello immateriale, okay. Non proprio con quel nome lì. Sì, beh, insomma, nella squadra del Viadana. Esatto. E voi ragazzi invece? Io esterno di centrocampo. Con lui o contro? Ma adesso giochiamo di nuovo insieme, ma calcio 5. Ah, ok, ok. E lui? Io posso dire che ho giocato subito difensore, però non ho, cioè, diciamo, una collocazione precisa. Sì, no, esatto, non ho fatto una collocazione. Ah, ok. E tu? Ma hai io in realtà io sono un altro modo. Infatti, perché sentivo che giocavi a basket. Io ho giocato a basket 10 anni, però siamo conosciuti poi. Diciamo che ha provato a palleggiare col pallone da basket e poi ha capito che ci avrebbe lasciato due metatarsi e ha scelto di giocare nel modo corretto. Ok, ok. E tu anche tu giochi nella zona? Sì. Adesso ho smesso perché poi dopo che gli impegni. Infatti, diciamo, le cose cambiano, ci sta. Va bene. Allora, Mattia, vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa? Beh, innanzitutto, se mi ascolta, no? Saluto la Giada. Dopo, ovviamente, ringrazio i miei tre amici presenti e i due che sono assenti per l'impegno, per la bella serata che mi hanno organizzato. E che dire, sono ancora 20 giorni di libertà e poi... Vabbè, non vederla così, certo. Dai, non vederla così. No. Non vederla così negativa. Fai in tempo a ripensare. No, sono sicuro della mia scelta, ovviamente. Bravo. Spero che vada bene. Ecco tutto. Andrà bene, ti facciamo anche noi tanti auguri e vi auguriamo ancora buon divertimento, visto che c'è tempo e modo di divertirsi un po' con noi. Grazie mille ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao.